Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. Nona puntata. Il filmodromo dove mi portarono, fratelli, era diverso da tutti quelli che avevo visto fino allora. C'era sì una parete tutta coperta da uno schermo d'argento, e nella parete di fronte c'erano i fori quadrati per i proiettori, e c'erano altoparlanti stereo da tutte le parti. Ma contro una delle altre pareti, a destra, c'era un bancone pieno di tanti piccoli aggeggi tipo contatori, e in mezzo alla stanza c'era una poltrona tipo dentista, con un sacco di fili che partivano da lì, e io dovetti quasi strisciare dalla poltrona a rotelle a quest'altra poltrona, aiutato da un'altra specie di infermiere in camice bianco. Poi mi accorsi che sotto i fori per la proiezione c'era tutto un vetro opaco, e là dietro mi parve di locchiare delle ombre, tipo gente in movimento, e snicchiai fare come qualcuno che tossisce. Ma poi non mi accorsi più di nulla, se non che mi sentivo proprio debole, e pensai che doveva dipendere dal cambiamento dalla boffa dalla prigione a questa nuova boffa così ricca e anche dalle vitamine che mi avevano iniettato. «Bene», disse il poldo della sedia a rotelle, «ora ti lascio. Lo spettacolo comincia appena arriva il dottor Brodsky. Buon divertimento!» A essere sinceri, fratelli, non avevo nessuna voglia di locchiare dei film quel pomeriggio. Non mi sentivo tanto in vena. Mi sarebbe piaciuto molto di più farmi un bel ciocco nel mio letto, tranquillo, tranquillo e tutto solicello. Mi sentivo uno straccio. Poi successe che uno dei poldi in bianco mi assicurò il planetario a una specie di poggiatesta con una cinghia, canterellando tra sé qualche lezzosa sguanata di canzone pop. «A cosa serve?» dissi io. E questo Martino, smettendo un attimo di cantare, rispose che serviva a tenermi ferma la testa e a farmi guardare lo schermo. «Ma», dissi, «io voglio guardare lo schermo. Sono stato portato qui per locchiare dei film e ho intenzione di locchiarli». E allora, l'altro poldo in bianco, ce n'erano tre, e uno era una quaglia che stava seduta al banco dei contatori e trafficava con le manopole, si fece una gufatina. Disse, «Non si sa mai». «Oh, non si sa mai». «Così è meglio, amico. Fidati di noi». E poi mi accorsi che mi legavano pure le granfie ai braccioli e le patte al predellino. Mi sembrava tutta una cosa da scardinati, ma li lasciai fare. Se tra 15 giorni dovevo essere di nuovo un malcico libero, potevo ben sopportare, fratelli. Ma una trucca non mi piacque per nulla. E fu quando mi misero un paio di aggeggi tipo graffe sulla pelle della fronte, e mi tirarono così in alto le palpebre che non riuscivo più a chiudere i fari per quanto mi sforzassi. Cercai di gufare e dissi «Deve essere un film cinebrivido davvero se ci tenete tanto che lo guardi». E uno dei poldi in bianco disse «Cinebrivido è la parola, amico. Sono dei veri film dell'orrore». E poi mi piazzarono un casco pieno di fili sul planetario, mi misero una trucca avventosa tipo cuscinetto sulla pancia e sul vecchio TikTok e l'occhiai che pure da lì partivano dei fili. Poi snicchiai aprirsi una porta e si capiva che stava entrando qualche Martino molto importante dalla maniera in cui quei sottopoldi in bianco si irrigidivano tutti. E così locchiai questo dottor Brodsky. Era un poldino molto grasso, con un sacco di capelli ricciuti tutto intorno al planetario e con delle traveglie molto spesse sul naso patatesco. Notai che portava delle palandre cinebrivido, assolutamente all'estremo grido, e che aveva addosso una delicatissima sniffa di anfiteatro anatomico. Con lui c'era il dottor Branham, tutto un sorriso come per farmi sentire tranquillo. «Tutto pronto?» disse il dottor Brodsky con grande emissione di fiato. Poi snicchiai delle voci che dicevano «pronto, pronto, pronto» come da molto lontano, poi più da vicino, poi ci fu uno sguerzo tipo ronzio come se tutto fosse messo in azione. E poi la luce si spense. E il vostro umile narratore e amico restò al buio tutto solicello e spaventato, senza che potesse muoversi o chiudere gli occhi o far nulla di nulla. E poi, fratelli miei, cominciò il film, con una musica d'atmosfera molto altisuono, molto brividosa e piena di dissonanze. E poi venne l'immagine sullo schermo, ma senza nemmeno un titolo di testa. Quello che si locchiava era una strada, tipo qualsiasi strada di qualsiasi città. Ed era notte buia e fonda, e i lampioni erano accesi. Era un pezzo di cine ben fatto, tipo professionale, senza tutti i ballonzoli e i tremolii che ci sono, per esempio, quando si locchia uno di quei film porno in casa di qualcuno. E intanto la musica rimbombava molto sinistra. E poi si locchiò un vecchio venir giù per la strada, molto bigio. E a un tratto apparvero due malcichi e gli saltarono addosso, ed erano vestiti all'estremo grido, come se il film fosse stato girato in quei giorni. Calzoni ancora smilzi e niente fazzoletti al collo, ma una cravatta vera. E cominciarono a scapricciare con lui. Si snicchiavano le urla e i gemiti molto realistici, eppure il respiro ansimante dei due malcichi festanti. Crac, crac, crac! A forza di pugni lo ridussero come un budino. Gli strapparono via le palandre, lo presero a stivalate sulle macerie nude e poi se ne scapparono guizzi lasciandolo tutto rosso di salsa nel fango saloppo del rigagnolo. Poi ci fu un primo piano del planetario di questo bigio poldo mezzo morto, con la salsa di un bellissimo rosso che colava giù. È buffo come i colori del mondo reale ti sembrano realmente reali solo quando li vedi sullo schermo. Ora, mentre stavo locchiando, cominciavo ad accorgermi di una strana sensazione, come se non mi sentissi tanto bene. E incolpavo ancora il mio stomaco denutrito e non del tutto pronto per ricevere la boffa ricca e le vitamine che mi davano là. Ma cercai di non pensarci, concentrandomi sul film seguente che cominciò subito senza nessuna interruzione. Questa volta, fratelli, apparve immediatamente una giovane mammola a cui facevano il vecchio va e vieni. Prima un malcico, poi un altro, poi un altro, poi un altro. E lei scricciava più non posso molto altisuono attraverso gli stereo, insieme a una musica molto patetica e tragica. Sembrava vero, molto vero. Sebbene se ci pensavi un momento non era possibile che Poldi e Quaglie si facessero fare tutto quello in un film. E se questi film erano fatti dal bene e dallo Stato, non era possibile che permettessero di girare tutto quanto senza intervenire. Così dovevano essere stati molto bravi nella regia o nel montaggio o trucche del genere. Perché era molto vero. E quando si arrivò al sesto o settimo malcico ghignante e gufante che ci dava dentro, e la quaglia che scricciava nella colonna sonora come scardinata, io cominciai a sentirmi male. Avevo dei dolori dappertutto e non capivo se avevo o non avevo voglia di rigettare, e cominciavo a sentire come un'angoscia, fratelli miei, d'essere così legato fermo a quella poltrona. Quando quel pezzo di film fu finito, snicchiai la golizia di questo dottor Brodsky dal tavolo di controllo che diceva: «Reazione 12,5! Promettente! Promettente!» Poi capitammo filati dentro un'altra trincia di film, e questa volta era solo una biffa umana. Una faccia molto pallida che tenevano ferma e a cui facevano un sacco di trucchi orribili. Io, tra le budella che mi si torcevano e una terribile sete, e il planetario che mi faceva tac, tac, tac, sudavo un piccolo poco, e mi pareva che se avessi potuto non locchiare quel pezzo di film forse non mi sarei sentito così male. Ma non potevo chiudere i fari, e anche se cercavo di muovere la palla dell'occhio in giro non uscivo dal campo visivo del film. Così dovevo continuare a locchiare quello che facevano e a sentire le scriccia più agghiaccianti venire da quella biffa. Lo sapevo che non poteva essere vero, ma questa non faceva una gran differenza. Avevo dei conati di vomito, ma non potevo rigettare, locchiando prima una lisca che tagliava un occhio, poi che affettava una guancia, poi che trac, trac, trac, tagliava dappertutto mentre la salsa rossa schizzava fin sulla lente della macchina. Poi gli strapparono via tutti i denti con un paio di tanaglie e lo scricciare, il sangue erano spaventosi. Poi snicchiai la voce molto compiaciuta di questo dottor Brodsky che diceva: «Eccellente, eccellente, eccellente!» Poi fu la volta di un film su una vecchia che aveva un negozio e che veniva presa a calci tra gufate altisuono da un mucchio di malcichi. E questi malcichi prima facevano a pezzi il negozio e poi gli appiccavano fuoco. Si locchiava questa povera vecchia babusca che cercava di trascinarsi i carponi fuori dalle fiamme, ma non poteva muoversi perché questi malcichi le avevano rotto una gamba a calci. E così tutte le fiamme la circondavano ruggendo e locchiavi la sua biffa agonizzante che usciva tra le fiamme tipo supplichevole e poi ci spariva dentro. E poi snicchiavi le urla più altisuono e angosciose e angoscianti mai uscite da una gola umana. Così questa volta capii che dovevo vomitare e scricciai: «Voglio vomitare! Vi prego, lasciatemi vomitare! Vi prego, portatemi qualcosa per vomitarci dentro!» Ma questo dottor Brodsky mi gridò: «È solo immaginazione! Non ti preoccupare! Ora arriva il prossimo film!» Quella forse doveva essere una spiritosata, perché snicchiai venire una gufatina dal buio. e poi fui obbligato ad occhiare uno schifosissimo film sulla tortura giapponese. Si era nella guerra del 39-45 e crocifiggevano dei soldati agli alberi con i chiodi e gli accendevano il fuoco sotto i piedi e gli tagliavano le berte. E l'occhiavi perfino un planetario che veniva tagliato a fette con una spada. E poi, mentre questa testa rotolava via con il truglio e i fari che sembravano ancora vivi, il corpo di questo soldato correva un po' in giro, con la salsa che usciva dal collo come una fontana e poi cascava giù. E tutto il tempo si snicchiavano delle gran risate da parte dei giapponesi. Ora il mio mal di pancia e il mal di testa e la sete mi parevano insopportabili e sembrava che venissero proprio fuori da quello schermo. Così scricciai: «Basta col film! Vi prego, basta! Non lo posso più sopportare!» E allora la ciangotta di questo dottor Brodsky disse: «Basta? Basta? Hai detto? Ma come? Abbiamo appena cominciato!» E lui e gli altri gufarono forte. Non desidero descrivervi, fratelli, quali altre orrende trucche io fui costretto a occhiare quel pomeriggio. Questo dottor Brodsky e il dottor Brenham e gli altri Martini in bianco, compresa la quaglia che trafficava con le manopole e sorvegliava i contatori, devono avere avuto una mente più lurida e sguanosa di tutti gli sgarroni della Prista, perché non credo che nessun Martino possa anche solo pensare di fare dei film su quello che era obbligato a occhiare, tutto legato a quella sedia con i fari tenuti spalancati a forza. Tutto quel che potevo fare era scricciare altisuono «Basta, basta, basta!» e questo copriva un piccolo poco il rumore dello squassaggio e dei festoni e anche la musica che ci andava insieme. Potete immaginarvi il terribile sollievo di quando locchiai l'ultimo pezzo di film e questo dottor Brodsky disse, con una ciangotta tipo annoiata e sbadigliosa: «Credo che per il giorno primo possa bastare, no, Brenham?» E io mi trovai là, sotto le luci, col planetario che pulsava come un motore tamagno che fabbrichi il dolore, e il truglio tutto asciutto e come saloppo dentro, e con la voglia di vomitare ogni boccone di boffa che avessi mai mangiato, o fratelli, dal giorno dello svezzamento. «Bene», disse il dottor Brodsky, «ora potete riportarlo a letto». Poi mi batté una granfia sulla mestola e disse: «Bene, bene, un inizio molto promettente», con la biffa tutta un ghigno, e se ne andò rullando tipo anitra col dottor Brenham dietro. Ma prima di andare il dottor Brenham mi gettò un sorriso tipo somesco e compassionevole, come se lui non c'entrasse per nulla in tutta quella trucca e ce l'avessero obbligato come me. Comunque, mi liberarono le macerie e mi lasciarono andare la pelle sopra i fari così che li potevo aprire e chiudere, e io li chiusi, oh fratelli, per via di tutto quel dolore e il battito che avevo nel planetario, e poi fui ripiazzato nella vecchia sedia a rotelle e fui riportato nella mia migna cameretta, con il sottopollo che mi spingeva cantando a tutto spiano qualche canzone pop a miele strazio. Così io ringhiai: «Oh, chetati un po'!» Ma lui gufò e disse: «Non badarci, amico!» e riprese a cantare più forte di prima. Così fui messo a letto, ma per quanto mi sentissi così mantecato non riuscivo a dormire. E poi cominciai a sentire che presto avrei potuto cominciare a sentire che presto avrei potuto cominciare a sentirmi un piccolo poco meglio. E poi mi portarono del buon cià bollente con tanto mommo e sacar, e bevendolo capii che quella trucca orribile tipo incubo era ormai nel passato. E poi entrò il dottor Brenham, tutto carino e sorridente. Disse: «Come va? Dai miei calcoli dovresti cominciare a sentirti di nuovo bene, vero? Dottore? Dissi io, tipo diffidente. Non avevo azzeccato bene di quali calcoli stava sprolando, dato che sentirsi meglio dopo che si è stati mantecati è affare nostro e non ha nulla a che vedere con i calcoli. Lui sedette sul bordo del letto, tutto carino e somesco, e disse: «Il dottor Brodsky è soddisfatto. Hai avuto una reazione molto positiva. Domani, naturalmente, ci saranno due sedute, al mattino e al pomeriggio. E alla fine della giornata ti sentirai un po' debole, immagino, ma dobbiamo essere duri con te. Tu devi essere guarito». Io dissi: «Vuol dire che dovrò di nuovo... Vuol dire che sarò obbligato a guardare i... Oh!» dissi. «È stato orribile!» «Certo che è stato orribile!» sorrise il dottor Brenham. «La violenza è una cosa orribile. È proprio quello che sta imparando. È il tuo corpo che lo sta imparando. Ma...» dissi io. «Non capisco. Non capisco perché mi sia sentito così male. Non mi sentivo mai male prima. Anzi, al contrario. Che lo facessi o stessi a guardare mi sentivo proprio cinebrivido. Non riesco a capire perché o come o che cosa...» «La vita è una cosa meravigliosa», disse il dottor Brenham con una ciangotta tipo ispirata. «I processi della vita, il comportamento dell'organismo umano. Chi può del tutto comprendere questi miracoli? Naturalmente, il dottor Brodsky è un uomo notevole. Ciò che ora ti sta accadendo è quello che dovrebbe accadere a ogni organismo umano sano e normale davanti alle forze del male e al principio di distruzione. Noi ti facciamo diventare sano, ti stiamo rendendo alla normalità». «Io non voglio», dissi, «e non capisco. A me pare che mi facciate sentire molto, molto malato». «Ti senti male adesso?» disse, sempre col vecchio sorriso somesco sulla biffa. «Stai bevendo il tè, ti stai riposando, stai chiacchierando tranquillamente con un amico. Non mi dirai che ti senti male». Io, con una certa cautela, tipo ascoltai e mi sentì il planetario e le macerie per ritrovarci il dolore e la nausea. Ma era vero, fratelli. Adesso mi sentivo proprio cinebrivido e avevo perfino voglia che mi portassero la cena. «Io non capisco», dissi. «Voi dovete farmi qualcosa perché io mi senta male». E mi misi a pensarci sopra, accigliato. «Oggi ti sei sentito male?» disse lui. «Perché stai migliorando. Quando siamo sani, reagiamo con la paura e la nausea a ciò che è detestabile. Tu stai diventando sano, ecco tutto. E domani a quest'ora sarai ancora più sano». Poi mi batté sulla mestola e uscì. E io cercai di sbrogliare l'imbroglio meglio che potevo. Pensai che forse erano tutti quei fili e le altre trucche che mi fissavano alle macerie a farmi star male e che in realtà era tutta una truffa. Stavo ancora almanaccando su queste cose, chiedendomi se all'indomani dovessi rifiutare di farmi legare alla sedia e fare un bello squassaggio con tutti quanti, perché anch'io avevo i miei diritti, quando un altro martino venne a trovarmi. Era un poldo bigio, tipo sorridente, che disse d'essere l'addetto alla scarcerazione e portava un fracco di carte con sé. Disse: «Dove hai intenzione di andare quando uscirai di qui?» A quel genere di trucchi non ci avevo ancora pensato e solo ora cominciai a rendermi conto che molto presto sarei stato un malcico libero, ma soltanto se facevo a modo loro e non mi mettevo a squassare, scricciare, rifiutare e così via. Dissi: «Oh, andrò a casa mia, dal mio P e dalla mia M». «Dal tuo?» Non capiva il gergame moschetto, così dissi: «Dai miei genitori, nel caro vecchio abituro». «Ah», disse, «e quant'è che non vedi i tuoi genitori?» «Un mese», dissi, «quasi. Hanno sospeso il giorno di visita per un po', per via che hanno trovato un remigio con della polvere esplosiva. La sua quaglia gliel'aveva allungata tra le sbarre. È stata una vera sguanata punire anche chi non c'entrava per nulla. Così è quasi un mese da quando ho avuto l'ultima visita». «Ah», disse questo martino, «e i tuoi genitori sono stati informati del tuo trasferimento e del tuo prossimo rilascio?» Quella parola... Rilascio, che bel sound che aveva. Dissi: «No». Poi dissi: «Gli farò proprio una bella sorpresa, no? Aprirò la porta e dirò: eccomi, son tornato e sono di nuovo un martino libero. Sì, una sorpresa cinebrivido». «D'accordo», disse quel martino della scarcerazione. Allora lasceremo le cose come stanno. Basta che tu abbia un posto dove abitare. Ma bisognerà anche trovarti un lavoro, no? E mi fece vedere una lunga lista di lavori che avrei potuto fare, ma io pensavo, beh, per quello c'era tempo. Una bella vacanza prima. Potevo farmi su un bello sgaraffo appena uscito e riempirmi le vecchie gaioffe di Bella Maria, ma avrei dovuto star molto attento e far tutto da solicello. Ormai non mi fidavo più dei cosiddetti Soma. Così dissi a questo Martino di sospendere che ne avremmo sprolato un'altra volta. Lui disse va bene, va bene, va bene, poi si alzò per andarsene. Doveva essere un Martino ben strambo, perché a un tratto si mise a ridacchiare e poi disse «Ti piacerebbe darmi un pugno in faccia prima che io vada?» Io pensai di aver snecchiato male, così dissi «Eh? Non ti piacerebbe?» E ridacchiò «Darmi un pugno in faccia prima che io vada?» Io m'accigliai molto perplesso e dissi «Perché?» «Oh!» disse lui, «solo per vedere a che punto sei». E mi mise la biffa molto vicina, con un vasto ghigno sul truglio. Così alzai il pugno e smac! Feci per darglielo sulla biffa, ma lui si tirò indietro molto guizzo, sempre ghignando, e la mia granfia colpì soltanto l'aria. Strambo davvero. Io rimasi piuttosto scombinato quando lui se ne andò, gufando da smascellarsi. E poi, fratelli miei, mi sentii di nuovo male sul serio, proprio come nel pomeriggio. Ma passò guizzo. E quando mi portarono la cena mi accorsi di avere un deciso appetito ed ero pronto a sgranocchiarmi il pollo arrosto. Ma era strano che quel bigio Martino mi avesse chiesto di dargli un festone sulla biffa. Ed era strano che mi fossi sentito male in quel modo. Ma la cosa più strana accadde quando mi addormentai, fratelli. Ebbi un incubo. E come c'era da aspettarsi, era uno di quei film che avevo l'occhiato nel pomeriggio. Un sogno o un incubo. È tipo un film dentro il tuo planetario, tranne che tu ci puoi entrare dentro e farne parte. E questo fu ciò che mi accadde. Era un incubo di uno di quei film che mi avevano fatto vedere verso la fine della seduta. Tutto su dei malcichi gufanti che facevano gli ultraviolenti con una giovane mammola che scricciava e scricciava, tutta piena di salsa rossa, con le palandre tutte sciancate cinebrivido. Io stavo in mezzo a questo scapriccio, gufante tipo il capo, vestito all'estremo grido moschetto. E poi, al culmine di tutto questo festaggio e squassaggio, mi sentii come paralizzato e con una gran voglia di vomitare. E tutti gli altri malcichi si fecero gran gufate ultrasuono alle mie spalle. Io squassavo più non posso per svegliarmi attraverso la mia stessa salsa, litri e litri, e poi mi ritrovai a letto nella mia camera. Avevo voglia di vomitare. Così scesi dal letto tutto tremante per uscire nel corridoio. Ma accidenti, fratelli! La porta era chiusa a chiave. E voltandomi, l'occhiai per la prima volta che c'erano le sbarre alla finestra. Così, mentre pigliavo il vaso che c'era nel mio comodino vicino al letto, capii che non c'era via di scampo. Il peggio era che non avevo il coraggio di tornare dentro i sogni del mio planetario. Poi mi accorsi che non mi veniva affatto da vomitare, comunque grippavo di tornare a letto. Poco dopo, però, cascai al lampo, addormentato, e non sognai più. «Basta, basta, basta!» Continuavo a scricciare. «Fermatevi, sguanosi bastardi, io non ne posso più!» Era il giorno dopo, fratelli, e io avevo fatto sinceramente del mio meglio, mattina e pomeriggio, per compiacerli, e me n'ero rimasto seduto come un sorridente malcico collaboratore sulla sedia di tortura, mentre proiettavano i loro lezzosi filmetti d'ultraviolenza sullo schermo, gli occhi tenuti aperti con le pinze perché l'occhiassi bene tutto, macerie e granfie e patte fissate alla poltrona perché non mi muovessi. Quello che ora mi costringevano a l'occhiare era una di quelle trucche che prima non mi sarebbe sembrata tanto male, trattandosi soltanto di 3 o 4 malcichi che sgarraffavano in un negozio e si riempivano le gaioffe di trucciolo, e allo stesso tempo si scapricciavano con la bigia quaglia scricciante che era la padrona, festandola e facendo sprizzare la salsa rossa. Ma il martellio e il tum tum tum tum nel planetario e la voglia di vomitare, la terribile sete che mi bruciava il truglio, tutto era peggio del giorno prima. «Oh, ne ho abbastanza!» gridavo. «Non è giusto, lezzosi bugaroni che non siete altro!» E mi dibattevo per liberarmi, ma tutto era inutile, perché su quella sedia c'ero ben appiccicato. «Magnifico!» scricciò questo dottor Brodsky. «Stai andando benissimo! Ancora uno e poi abbiamo finito!» Quello che venne adesso era di nuovo la bigia guerra del 39-45 ed era un film tutto chiazzato e rigato e screpolato che si capiva era stato fatto dai tedeschi. Cominciava con le aquile germaniche e la bandiera nazista con quella specie di croce a uncini che tutti i malcichi disegnano sempre a scuola. E poi c'erano degli ufficiali tedeschi tutti altezzosi e friggibuco che camminavano per le strade piene di polvere, di macerie e di edifici distrutti. Poi si locchiavano dei martini che venivano fucilati contro il muro, degli ufficiali che davano ordini e anche degli orrendi corpi spalandrati lasciati a morire nei rigagnoli, specie di gabbie fatte di costole e di magre putrelle bianche. Poi c'erano dei martini che venivano trascinati via e festati e quelli scricciavano, ma non sulla colonna sonora, fratelli, perché si snicchiava solo la musica. E poi, nonostante tutto il mio male e la mia nausea, mi accorsi quale musica fosse quella che gracchiava e rimbombava nella colonna sonora. Ed era il Ludwig van, l'ultimo movimento della quinta sinfonia. E allora scricciai da scardinato: «Basta!» scricciai. «Basta, bugaroni, bastardi disgustosi! Questo è un delitto! Uno sporco, imperdonabile delitto, lezzoni!» Non smisero subito, perché c'era solo ancora un minuto o due. Martini picchiati e coperti di salsa, poi altre fucilazioni, poi la vecchia bandiera nazista e poi fine. Ma quando le luci si riaccesero, questo dottor Brodsky e anche il dottor Brenham mi vennero davanti e il dottor Brodsky disse: «Che cos'è un imperdonabile delitto, eh?» «Quello», dissi tra la nausea, «usare Ludwig van in quel modo. Lui non faceva male a nessuno. Beethoven scriveva soltanto della musica!» E poi vomitai sul serio e dovettero portare un recipiente a forma di rene. Marco Cavalcoli ha letto Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.